Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Sono sicuro che Maria m'ama. Un commando è un gruppo armato. Devi capire che questo è un comando. L'asino è una bestia da soma. In quell'occasione fummo davvero fortunati. Non fumo più. La mamma ha preparato un bel pranzo. Se potessimo, andremmo domani al concerto. C'è un lungo cammino per arrivare alla meta. È bello stare davanti al camino acceso. Se potremo, andremo al concerto domani. Ha depositato una notevole somma di denaro.